Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Magazine all'apertura per le nostre rubriche, seppur un po' in ritardo. Beh, altri suoni è stata particolarmente corposa, con presentazione di una novità discografica e ascoltati per voi questa costola di Jazz Live, che essendo particolarmente pieno di contenuti al venerdì ho deciso di traslare la parte di recensione del concerto all'interno della rubrica nel Breakfast Club altri suoni. Iniziamo dal primo articolo che ha attirato la mia attenzione dalla lettura del Corriere della Sera. L'acqua di Venezia bagna gli scrittori, la geografia della città lagunare e anche la geografia della memoria letteraria, perché qui hanno vissuto in tanti, da Dante a Ugo Pratt, non tutti ricordati da lapide e targhe, ma tanti però sono stati così citati nell'architettura della città. Venezia è generosa di piccole e grandi perle che sono lapidi, targhe, tracalli e campielli, e si possono ritrovare anche tra quelli che sono nelle presenze di grandi artisti. Direi di più, sono loro che trovano noi, epigrafi, dediche a grandi artisti, circa 400 così più o meno, e non sono pochi che l'hanno vissuta a modo loro: da Goethe, Goldoni, Dante, anche Petrarca. Pensate che a Petrarca Venezia regalò una città, una casa, le ha dato un'abitazione. Ok, hai un talento, sei talmente importante che Venezia ti regala la possibilità, un appartamento, una casa a Venezia per Petrarca. Però yes, the light is now shining through and I see a new view and now I'm no longer cute without a clue. Oh, I dear, I feel white fear, the stumbling blocks, you know, there's always... Quello che mi ha colpito in particolar modo è un articolo molto corposo, ma quello che è più importante, siccome l'edicola della quale viene la fornitura del Breakfast Club, e non solo, ovviamente ho voluto citare Simone in questo caso perché è la prima persona che vedo alla mattina, prima persona fisica, e quindi saluto. Beh, la lettura resta in edicola per tutta la settimana, approfittatene, a costo di un caffè, meno di un caffè, la possibilità di avere questi articoli di approfondimento culturale, secondo me molto importanti. Allora, da pagina 50 a pagina 51 vi è questa mappa di Venezia e dove ritrovare queste iscrizioni, che comprendono Dante Alighieri al campo dell'Arsenale, Wolfgang Goethe per quello che è un percorso nei tempi e nello spazio. Non dimentichiamo poi l'isola di San Michele, che ovviamente è un deposito delle memorie. Josef Brodsky è una delle tombe, diciamo, più visitate, ma tantissimi ne troviamo, come vi ho detto, all'interno della Darsena, del Canal Grande, all'isola di San Pietro, all'isola di San Lazzaro degli Armeni. E un percorso letterario all'interno della Serenissima è indubbiamente un motivo e un valore aggiunto, soprattutto se corredate tutto ciò con una visita alla libreria dell'Acqua Alta, che è qualcosa, ne ho probabilmente già parlato, per quanto riguarda originalità e anche un piacevole disordine che trovate all'interno di questa libreria, e tante perle sparse qua e là. Ecco, dovete avere del tempo, perché mettersi a cercare tra gondole che diventano librerie, tra campielli che sono allo stesso modo sale di lettura a bordo di quello che è una libreria galleggiante, è qualcosa di oltremodo suggestivo. All'interno del Corriere della Sera trovate la lettura e trovate la possibilità di vedere una Venezia che concretamente rende omaggio a questi scrittori grandi e grandissimi. Goethe visse un mese nel 1786 sul Ponte dei Fuseri a Venezia, e lì vide il mare per la prima volta. Pensate che contesto è che ha dato a questo grandissimo scrittore e tanti altri episodi, poi brillanti e innovatrici, anche tante letterate ovviamente hanno avuto modo di essere ispirate e di avere soggiorno e ricordo alla bellissima città lagunare. Non dimentichiamo, anche se non ne sono un fan, di Ugo Foscolo, di Giovanni Boccaccio, potrei andare avanti ad oltranza, Marcel Proust, Lord Byron, e quindi direi che da Venezia sono passate e passati tutte e tutti, per quanto riguarda anche un percorso che va al di là dei tempi e nello spazio. Se non è di ispirazione Venezia, vedete un po' voi. Grandi intellettuali, dove trovano anche un riposo per spoglie mortali all'isola di San Michele, da Fondamente 9 potete prendere il traghetto che va verso le isole in un viaggio via mare bellissimo da Murano Burano fino all'arrivo a Torcello, altro posto magico. Beh, la prima sosta è all'isola di San Michele, il deposito delle memorie di Venezia. E per quanto riguarda depositi delle memorie, in questo caso invece di personaggi del trapassato remoto, ma che è sempre costantemente motivo non solo di curiosità ma di grande interesse culturale, parleremo nel prossimo articolo, sempre nella lettura, di un'architettura votiva per faraoni e personaggi molto molto illustri nel mondo del primo regno degli antichi egizi, perché dal punto di vista della struttura architettonica, della disposizione, sì, potremmo parlare dell'iconografia, delle modalità e di tutto quello che è legato al percorso votivo e il rispetto che avevano per i defunti, ma c'è di più, c'è anche un'attenzione architettonica per quanto riguarda il posizionamento e ne parleremo tra poco. E a tale proposito, Nefertiti, no? Di Nicola Conte. Buon ascolto. buongiorno a te. Scrivi al 333-180-9494. Ero ieri a Venezia, che meraviglia! E i gatti, libreria. L'articolo che hai citato è il supplemento del Corriere. Sì, esattamente. Mi devo ancora svegliare, dice. No, tranquilla, sei sveglissima. Sì, è il supplemento del Corriere, è la lettura del Corriere della Sera, che trovi ancora in edicola. Numero molto corposo, con approfondimenti letterari di grande curiosità. Grazie Cristina, ti auguro una buona giornata, un caloroso abbraccio. Per l'omaggio che arriva da Lino di Massimo Jacopini, The Early Years. Abbiamo avuto Massimo Jacopini, prima ovviamente, lui nasce a Empoli, l'abbiamo avuto al Mutu Group, arriva a Bologna quando ancora sponsor Latte Sole, prosegue arrivando anche Azzurro e arrivando a titoli importanti nella Benetton Treviso, e qui c'è questo lavoro che mi consiglia e che a sua volta è un podcast che potrebbe essere anche messo in contatto con il Mood Groove. Grazie, grazie dell'omaggio, Lino. Nefertiti, il brano di Nicola Conte, quindi con questa grande figura, siamo veramente nel primo periodo, abbiamo una conoscenza approfondita di come quella civiltà intendesse i destini dell'uomo dopo la morte. Esattamente, c'è tanto l'iconografia, no? Il dio sciacallo Anubi per quello che è un mantenimento il più possibile anche dei resti e delle spoglie mortali, queste grandissime imponenti piramidi, ed è tema dell'incontro che apre la rassegna romana e che qui anticipa il direttore del Museo Egizio di Torino con questo festival. L'autore di questo articolo è Cristian Greco, egittologo e direttore del bellissimo Museo Egizio di Torino. Tra l'altro è stato anche al centro di polemiche, se ben ricordate, in quanto ha dato la possibilità a cittadini provenienti da altri paesi di cultura araba di poter avere l'ingresso omaggio all'interno della struttura. E invece ha fatto bene, bravo Cristian Greco, altro che polemiche, non è mettere in secondo piano nessuno, è assolutamente dare invece la possibilità e un'apertura molto interessante su quelle che sono le antiche culture che hanno fatto la storia. Quindi è anche autore di questo articolo e ci parlerà di disposizioni in relazione all'astronomia di queste gigantesche strutture, che avevano un incredibile capacità di dare comunicazione e di dare continuità seguendo il sole. Beh, la tomba costruisce un microcosmo, no? Oltre che a garantire i percorsi precisi che già conosciamo, come ho detto in precedenza, la conservazione e protezione il più possibile delle spoglie mortali, la rinascita, il percorso del sole, il movimento perpetuo che ricorda una continuità nella vita anche oltre la morte. E ovviamente, siccome la fisica e la metafisica si incontrano in questo percorso, è chiaro che viene rappresentata come una realtà alternativa che di base, per dirla come direbbero i latini, hic et nunc, qui e ora. La grande attenzione è questa: l'orientamento va da nord a sud, l'ingresso a sud, la camera sepolcrale è a nord, dove il sole si trova al suo zenith nella mezzanotte, perché appunto è il buio, è questa la camera sepolcrale, dove il buio, ma dove assolutamente il sole è perpendicolare, è il sole ritenuto dagli egizi notturno. Le pareti laterali est e ovest e i conicoli, i corridoi che attraversano la struttura, rappresentano esattamente il percorso del sole. E come facevano all'epoca ad avere delle idee così precise? Bah, poi si diventa complottisti. Saranno stati gli extraterrestri? Chissà, questo non ve lo posso garantire. Indubbiamente con gli strumenti a disposizione che sono arrivati dalla ricerca storica e archeologica fino ad oggi, vi posso però dire che sono assolutamente dei grandi fenomeni. Quindi l'aldilà degli Egizi, architettonicamente parlando, come disposizione in relazione all'astronomia, e a pagina 42 di Robinson, in seguito a questa lezione di storia, per un autore che è l'egittologo Christian Greco, sua volta direttore del Museo Egizio di Torino. Stacco musicale, ci accompagna alla pubblicità. Quando rientriamo, oltre che parlare di un altro simbolo molto importante nel mondo animale, che è la tartaruga, ultimamente sto avendo così contatti, il destino mi porta, il caso, che poi il caso non esiste, a incrociarmi con delle tartarughe. No, non persone che in macchina vanno particolarmente piano e fanno bene perché sono prudenti, no, proprio con tartarughe. Ve ne parlerò dall'articolo ritornando sulla lettura del Corriere della Sera, lasciando momentaneamente Robinson, e in seguito il quiz di oggi. Non cambiate frequenza, tra poco. Let me chop it. Musica musica di altri suoni, siamo un po' andati a trovare quella che è la letteratura nelle rappresentazioni che restano lapidarie, si dice, no? Nella magica serenissima abbiamo citato la libreria Acqua Alta con i suoi fantastici docili gatti, e mi raccomando, se siete gattofobici, quello è il miglior modo per vincere la vostra, mi permetto di dire, insensata paura, in quanto se un lavoro vi interessa, è il titolare stesso che dice guarda è sotto il gatto, beh, vi basta delicatamente prenderlo in braccio e spostarlo su un'altra pila di libri, è abituato, non fa una piega. L'architettura nell'antico Egizio, l'architettura, la disposizione votiva, la simbologia, e nella simbologia che già conosciamo, comunque, oltre che nell'antichità, tuttora la tartaruga rappresenta, oltre che la continuità di vita, la longevità, ve ne sono che veramente se avessero e se potessero parlare, ne hanno viste di ogni le tartarughe. Tartaruga amica mia, beh, un episodio strano che mi è capitato quest'estate nella splendida isola del Gebo, una signora ci è venuta incontro e vostra questa piccola tartaruga la potete tenere, ma qua sicuramente non ci sta, povera, è una tartaruga palustre d'acqua dolce, non sappiamo, ma era sotto il mio zaino e non ho capito bene le origini di questa tartaruga, che tra l'altro ha poi un nome egizio che è Set, e quindi una delle divinità, il dio della distruzione, no? Una divinità molto grintosa, molto particolare, molto focosa, e quindi ora battezzata Set continua, anzi adesso ha trovato casualmente anche compagnia, quindi tartarughe, tartarughe, e me ne ritrovo anche a pagina 14 della lettura, e perché no, tartaruga amica mia, la piccolina può arrivare a 200 kg, Camp la famosa carretta, la gigantesca liuto capace di migrazioni portentose nello spazio, pensate, dai mari tropicali ai freddi artici, magari con i suoi tempi, però fa dei viaggi iperbolici, ha visto arrivare i dinosauri e poi sparire. Il viaggio di Carl Safina è una meraviglia della natura e sì, giustamente anche un'accusa all'uomo, insomma, hanno il loro ambiente, sono belle, particolari, affascinanti. Io vederle soffrire veramente mi si spacca il cuore, cioè. E vi ho parlato anche, guida come una tartaruga. Tartaruga poi è venuto in mente Achille Pie Veloce nella sfida con la famosa favola, no? La gara tra la tartaruga e l'uomo più veloce del mondo. Quindi non sottovalutiamo il carapace della tartaruga, perché a modo suo filosoficamente è molto avanti. E a proposito di guida, invece, io porto questo lavoro di un amico per Radio Città Fujiko, oltre che un protagonista, un protagonista storico per edizioni Blackout, Taxi Follia. Lui risponde a nome di Andrea Tabellini, Tabs, la sua voce la possiamo sentire in frequenza sui 103.1, si è presentato in redazione con questo lavoro, Taxi Follia. Me ne vorrei leggere qualche brano, perché è molto particolare, sono tante pillole, potete immaginare un taxi, quello che vede nella quotidianità è veramente un resoconto di vita umana che lascia, oltre che alla curiosità, anche tanti motivi di riflessione. Taxi Follia, Andrea Tabellini, è il lavoro per voi oggi, in seguito, non dico in omaggio, ma in seguito al quiz che vado a enunciare tra pochissimo. Anzi, ho detto è troppo facile, lo rendo un po' più difficile. ...1976, voglio titolo e regista e protagonista, l'attore protagonista, il regista e il titolo. Si parla di Taxi, lui ritorna dal Vietnam, è un film che ha avuto un grandissimo successo, ovviamente nella parola, nel titolo vi è la parola Taxi ed è un grande classico del cinema, per cui 1976, ritorno dal Vietnam, un film che ha avuto un grandissimo successo, sia il protagonista che il regista sono dei giganti del cinema. Beh, per queste tre risposte e per voi, Taxi Follia di Andrea Tabellini, 333-180-9494. Aspetto queste, wow, tre risposte. Mi sento molto Silvia Albertazzi con questo triplice quiz, però è molto facile, dai. Protagonista un taxista. La parola taxi è all'interno del titolo, è il 1976, c'è il ritorno di questo veterano dal Vietnam e il regista è un gigante della storia del cinema, come lo stesso interprete principale. Titolo, attore principale e regia. Posso dire che siete molto preparate e molto preparati. La vincitrice, iniziamo dal podio, la vincitrice è Federica, che mette nome e cognome, ma per motivi di privacy do solo il nome. Federica, Taxi Driver 1976 di Martin Scorsese, attore protagonista Robert De Niro. Brava sia nei tempi che nei contenuti. Ottimo lavoro, ottima risposta. Taxi Follia è tuo. Nothing, there is no need to remember us. This is possibly our last 3 minutes of illusion. Yeah! Probably not. Grido d'esultanza al 333-180-9494. Anche Dino molto preciso, eh. Sapete però, ragazzi, Magic Johnson and Larry Bird del Voltiamo Pagine dei Magazine, questa volta siete stati battuti sul fil di lana. Grazie Dino, grazie anche Andrea, che tra l'altro merita assolutamente un'attenzione, oltre che un Taxi Follia di consolazione, Taxi Driver Martin Scorsese, Robert De Niro. Risposta esatta, ieri con Andrea ci siamo incontrati al Torrione per il concerto dei Bad Plus, eh. Pagina 43 di Robinson, Festival della Peste, così è chiamato, non correte, rallentare, ci fa star bene. La rassegna della Fondazione Il Lazzaretto in un luogo di manzoniana memoria. Chiaramente il festival apporta questo titolo a Milano. Esploriamo i confini tra ragione e sentimento. Non correte, rallentare, ci fa star bene. Seguite l'esempio tartarugato. For us, no libations, vigils or reparations. No love letters, mental eulogies. No bells, tolling smiles. Siamo stati tartarughe. Va bene così, Dino, va bene così. It's not that important. We are our own anonymous ancestors, reborn trying to remind ourselves of something, failing miserably. You'll be wailing busily. Hush, don't cry, cause yeah, some of us didn't die. We walked on water, ate dirt, or sat on the couch to get here. Others disappeared cause the earth could not afford them. More than one lone raggedy flag dragging at quarter mast would be too much to ask. If we do nothing, there wouldn't be anything greater than to honor us with a bedtime story of barren crater crust. If we do nothing, there is no need to remember us. This was maybe our last 3 minutes of evolution. Che dal Carlino c'è una pecora in solitudine. Loro che hanno curato questo remix dei Brand New Abyss sono chiamati The Black Sheep, le pecore nere. Gotta be the sheep under your nose, above your head. Honey said 69, I thought a poop. We gave a poke head. D for action, just like Jackson. Cause the Jackson got a mansion. But I don't even wanna really give a fuck, you know. I'm in the city, yo. So what if I go? Yo. Check it. Yo, days go by, we just get flyer. Swinging harder cause we got desire. Extra effort because we're triers. Got more heat than a dollar in the dryer. Got more flavor, the fruity fellas. Check the format and clock the levels. Yo, do what you gotta do. Cause I got more style than a store that's dapper. Got more sweet than a candy wrapper. Got more balls than a pimple slaps. And got heart like a bug that maps and make more sense than childhood tricks. Got more support than hot side quicks. So what happens in the mix? Some we can feel like a heroin. But yo, don't you know that the flow that I just move on just like so has got me in a state of what? E invece nei magazine troveremo modo anche di parlare con un collegamento, scusate, al voltiamo pagina. Intanto saluto e ringrazio Sergio che arriva in conclusione con i suoi simpatici calambur. Sono rugato dalla tarta perché la tartaruga è un po' che non ti do prova della mia imbecillità. Sai che ti stavo pensando, ma non per la caratteristica che tu hai citato, perché da un po' che non ci vediamo. Quindi avremo modo questa settimana, mi auguro, in redazione qua sul 103.1. Grazie Sergio, è la giusta conclusione per una puntata dove questo rettile, tartaruga rettile, è stata in gran parte protagonista. E ti auguro una buonissima giornata, dando appuntamento a domani sempre alle ore 7 con il Breakfast Club a breve e di per enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi la rassegna stampa di Radio Città Fuggito. Domani il Mood Groove, mi raccomando, ore 7 per la prima colazione in diretta. Grazie a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ai partecipanti del quiz, a chi ha dato motivo di co-conduzione e non solo. Un grazie per l'attenzione, un buon ascolto, un buon lunedì e una buona settimana. A domani dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.